Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Rabomi. Federico era assolutamente deciso a introdursi in un modo o nell'altro dagli Arnoux e a entrare in confidenza con loro. La loro casa doveva essere piacevole. Arnuglia era simpatico, fra l'altro, e poi chi poteva dire? Gli salì il sangue al viso d'un tratto. Le tempie gli battevano. Fece schioccare la frusta, scosse le redini e lanciò i cavalli a un'andatura tale che il vecchio cocchiere borbottava: «Ma piano, piano, così finirete per stroncarli!» A poco Federico si calmò e prestò orecchio alle parole del domestico. Il signore era aspettato con grande impazienza. La signorina Luisa aveva fatto i capricci per venire anche lei in carrozza. E chi è questa signorina Luisa? «Ma la figlia del signor Rocco! Il signore non ha... Sì, dimenticavo», replicò Federico con negligenza. I due cavalli intanto non ne potevano più. Zoppicavano tutte e due. E a San Lorenzo suonavano le 9 quando Federico arrivò nella piazza d'armi, davanti alla casa di sua madre. Era una casa spaziosa, col giardino aperto sulla campagna, che contribuiva a fare della signora Moreau la persona più rispettata del paese. La madre di Federico nasceva da una vecchia famiglia gentilizia ormai estinta. Il marito, un uomo di bassa estrazione che i suoi genitori le avevano fatto sposare, era morto d'un colpo di spada mentre lei era incinta, lasciandole un patrimonio vacillante. La signora riceveva 3 volte alla settimana e dava ogni tanto dei pranzi importanti. Ma il numero delle candele era rigidamente prestabilito e i denari del fittavolo erano attesi sempre con impazienza. Queste strettezze, dissimulate come un vizio, la rendevano austera. La signora Moreau nutriva grandi ambizioni per suo figlio. Non voleva che si parlasse male del governo davanti a lei per una specie di prudenza anticipata. Federico avrebbe avuto bisogno di protezioni all'inizio, poi, grazie alle sue doti, sarebbe diventato consigliere di Stato, ambasciatore, ministro. I suoi trionfi al collegio legittimavano tanto orgoglio. Aveva meritato il primo premio. Quando Federico fece il suo ingresso in salotto, tutti si alzarono con gran brusio. Fu abbracciato e si disposero sedie e poltrone in ampio semicerchio davanti al camino. Si cominciò a parlare del vecchio Rock, poi del signor D'Ambrese, che aveva appena acquistato la proprietà della Fortelle, quando venne la cuoca ad avvertire che il signore era servito. Gli altri si ritirarono per discrezione. Quando furono soli nella sala da pranzo, la madre gli chiese a bassa voce: «E allora?» Lo zio l'aveva ricevuto con molta cordialità, ma senza far capire le sue intenzioni. La signora sospirò. Intanto Federico pensava: «Dove sarà lei adesso?» La diligenza era in cammino e lei, avviluppata certo nello scialle, posava la testa adorabile nel sonno sul panno del sedile. Stavano già salendo di sopra quando arrivò il garzone della locanda con un biglietto. «Chi può essere?» «È Delorier, ha bisogno di vedermi.» «Ah, quel tuo amico!» esclamò la signora Moreau con una risatina di disprezzo. «Ha scelto proprio l'ora giusta.» Federico esitava, ma l'amicizia ebbe il sopravvento. Andò a cercare il cappello. «Cerca di non fare tardi, almeno!» gli raccomandò sua madre. Il padre di Carlo Delorier, ex capitano dell'esercito dimissionario nel 1818, era tornato a Nogent per sposarsi. Coi soldi della dote s'era comprato un posto di cancelliere che gli dava appena da vivere. Nel 1833, per invito del presidente, il capitano dovette cedere l'incarico. La moglie morì di cancro. Andò a vivere a Digione, riuscì a ottenere per Carlo una mezza borsa di studio e lo mise al collegio di Saint, dove Federico lo conobbe. Ma uno aveva 12 anni, l'altro 15. In più, li separavano 1000 differenze d'origine e di carattere. Federico aveva nei cassetti ogni sorta di provviste e di oggetti raffinati, un servizio da toletta, per esempio. Gli piaceva alzarsi tardi, guardare le rondini, leggere drammi. Abituato alle dolcezze casalinghe, le rimpiangeva e trovava rude la vita di collegio. La stessa vita riusciva gradevole al figlio del cancelliere. Si dava tanto da fare che alla fine del secondo anno fu regolarmente promosso in terza. Eppure, per colpa della povertà o del carattere litigioso, era circondato da una sorda antipatia. Una volta che un domestico, in mezzo al cortile della media, l'aveva chiamato figlio di straccioni, lui gli saltò alla gola e l'avrebbe ammazzato se non fossero accorsi tre istitutori. Federico, preso d'ammirazione, corse ad abbracciarlo. Da quel giorno la loro amicizia non ebbe limiti. La confidenza di un grande lusingava, si capisce, la vanità del più giovane. L'altro accettò con gioia la devozione tributatagli. Parlavano di quello che li aspettava in futuro, appena usciti dal collegio. Prima di tutto avrebbero fatto un lungo viaggio col denaro che Federico, una volta maggiorenne, avrebbe potuto attingere dal suo patrimonio. Poi sarebbero andati a Parigi a lavorare insieme senza lasciarsi mai e a godere nelle ore di svago di amori principeschi dentro boudoir tappezzati di seta o di orgie abbaglianti con le cortigiane più famose. A questi trasporti di speranza succedevano i dubbi. Da certi eccessi d'allegria verbosa i due cadevano in profondi silenzi. L'istitutore era convinto che si esaltassero l'un l'altro. Eppure se negli ultimi anni Federico si mise a studiare seriamente, fu per gli incitamenti dell'amico. Nelle vacanze del 1837 lo portò a casa sua, ospite della madre. Il giovane non riuscì simpatico alla signora Moreau. Si dimostrò un mangiatore eccezionale. Rifiutò di andare alla messa la domenica. Esponeva teorie repubblicane. In più, le sembrò di capire che aveva portato suo figlio in luoghi di perdizione. I loro rapporti vennero sorvegliati. Questo non servì che a rendere più viva la loro amicizia. E quando, l'anno dopo, Delorier lasciò il collegio per andare a studiare legge a Parigi, gli addii furono strazianti. Thank you. Federico era più che mai deciso a raggiungere Delorier. Erano 2 anni che non si vedevano. Finiti gli abbracci, andarono ai 2 ponti per discorrere in pace. Il padre, capitano Delorier, che adesso gestiva una sala da biliardo a Ville Nokes, aveva addirittura tagliato i viveri da un giorno all'altro al figlio. Dato che aveva in animo di concorrere più avanti a una cattedra e non aveva di che mantenersi, Delorier aveva accettato di lavorare come capo scrivano in uno studio legale. A furia di privazioni sarebbe riuscito a mettere via un 4.000 franchi, e se anche non avesse potuto mettere le mani sul resto dell'eredità materna, avrebbe comunque avuto la possibilità di lavorare liberamente per 3 anni in attesa di una sistemazione. Insomma, era necessario abbandonare il vecchio progetto di vivere insieme all'amico nella capitale, almeno per il momento. Federico abbassò la testa. Il primo dei suoi sogni andava in frantumi. «Non prendertela», disse il figlio del capitano. «La vita è lunga, siamo giovani!» «Sta tranquillo, non ti lascerò solo». Gli batteva sulle spalle e per distrarlo gli domandò qualcosa del suo viaggio. Federico non aveva molto da raccontare, ma gli tornò alla mente Madame Arnoux e la tristezza scomparve. Una sorta di pudore lo trattenne da parlarne all'amico. In compenso si dilungò sul conto di Arnoux, descrivendo la sua conversazione, il suo modo di fare, magnificando le sue relazioni. Delorier gli raccomandò vivamente di coltivare una simile conoscenza. Negli ultimi tempi Federico non aveva scritto niente. I suoi gusti letterari erano cambiati. Ciò nonostante aveva composto dei versi. Delorier trovò che erano belli, ma non gliene chiese altri. Quanto a lui, la metafisica non lo attirava più. Adesso erano l'economia politica e la rivoluzione francese a occuparlo. Era diventato, nel frattempo, a 22 anni, un giovanotto alto e magro, con la bocca larga e un'aria decisa. Quella sera aveva addosso un soprabito frusto e leggero, e le scarpe erano bianche di polvere perché se l'era fatta tutta a piedi, da Ville Nokes, apposta per vedere Federico. Camminando in direzione di Nogent, odore di foglie fradice salivano fino a loro. Il salto d'acqua, 100 passi più in là, mormorava con il brusio largo e dolce che fanno le onde nel buio. Delorier si fermò di netto e disse: «E questa brava gente si fa i suoi sonni tranquilli. È incredibile! Pazienza! Un altro 89 alle porte! Non se ne può più di costituzioni, carte, sottigliezze, menzogne! Se avessi un giornale o una tribuna, saprei ben io come fare a dare una buona scrollata a tutto quel vecchiume. Ma ci vogliono i soldi, per ogni cosa ci vogliono i soldi. Che maledizione essere il figlio di un bettoliere e sprecare la giovinezza a mendicarsi il pane». Chinò la testa e si morse le labbra. Nei suoi panni lisi stava tremando di freddo. Federico gli buttò sulle spalle un lembo del suo mantello. Se lo strinsero addosso insieme e camminavano fianco a fianco, sotto, tenendosi per la vita. «Come vuoi che faccia a vivere là da solo?» diceva Federico. L'amarezza dell'amico l'aveva fatto ridiventare triste. «Forse con una donna che m'amasse qualcosa avrei realizzato. Ridi. L'amore è la pastura del genio. È come dire la sua atmosfera. Sono le emozioni straordinarie che producono le opere sublimi. Ma quanto andare a cercare quella che mi ci vuole, ci rinuncio. E poi, anche se la trovassi, lei non mi vorrebbe. Appartengo alla razza dei diseredati e morirò senza sapere se il mio tesoro fosse di vetro o di diamanti». Sul selciato s'allungò l'ombra di qualcuno e insieme si sentì dire: «Servo loro, signori». Chi aveva parlato così era un ometto rivestito di una larga redingote marrone e con in testa un berretto a visiera sotto il quale si profilava un naso a punta. «Il signor Rock», disse Federico. «In persona», ribatté la voce. L'uomo giustificò la sua comparsa raccontando che veniva dal suo giardino in riva al fiume dove aveva ispezionato le trappole per i lupi. «Di ritorno al paese, eh? Bene, bene, l'ho saputo dalla mia bambina. La salute è sempre buona, no? Ma non doveva ripartire». E se ne andò, seccato evidentemente per l'accoglienza di Federico. La signora Moreau in effetti non lo frequentava. Il vecchio Rock viveva in concubinaggio con la sua governante ed era assai poco stimato, pur essendo una specie di grande elettore e uomo di fiducia di D'Ambrèse. «Chi? Il banchiere che sta in Rue d'Anjou?» si informò Delorier. «Lo sai cosa dovresti fare, vecchio mio?» Arrivò il domestico e l'interruppe. Gli era stato ordinato di ricondurre Federico senz'altro. La signora era inquieta per la sua assenza. «D'accordo, d'accordo, ci va», disse Delorier. «Non sta mica fuori a dormire!» E continuò. «Dovresti pregare quel Rock di presentarti ai D'Ambrèse. Non c'è niente di più utile che frequentare dei ricchi. Dal momento che possiedi un abito nero e dei guanti bianchi, approfittane. Bisogna che tu ci entri in quel mondo. Più avanti ci porterai anche me. Un milionario, ma ci pensi? Fai di tutto per piacergli e anche a sua moglie. Diventa il suo amante». Federico protestava. «Ma io ti sto dicendo delle cose classiche, no? Pensa a Rastignac nella Comédie Humaine. Ci riuscirai anche tu, ne sono convinto». Federico aveva una tale fiducia in Delorier che si sentì colpito e, dimenticando Madame Arnoux, o forse confondendola con l'altra nella predizione dell'amico, non riuscì a trattenere un sorriso. Approdato 2 mesi dopo a Parigi, di mattino in Rue Coq-Héron, Federico si mise subito a fare piani per la sua grande visita. Il caso l'aveva favorito. Il vecchio Rock era venuto a portargli un rotolo di documenti con la preghiera di recapitarli personalmente al signor D'Ambrèse. Insieme c'era un biglietto aperto con il quale presentava al banchiere il suo giovane compaesano. La signora Moreau parve sorpresa dell'iniziativa. Federico le tenne nascosta la sua contentezza. D'Ambrèse si chiamava in realtà Conte de Ambrèse, ma a partire dal 1825 si era staccato a poco sia dalla nobiltà che dal suo partito per dedicarsi all'industria ed era riuscito, si diceva, ponendo l'orecchio in ogni ufficio e una mano in ogni impresa, a mettere insieme una fortuna considerevole. Inoltre era membro della Legion d'Onore, deputato e presto pari di Francia. Uomo assai compiacente, peraltro, perseguitava continuamente il ministro con le sue richieste di aiuti, di decorazioni, di rivendite di tabacchi. Nei momenti di malumore contro il potere costituito, simpatizzava per il centro-sinistra. Sua moglie, la bella signora D'Ambrèse, era citata nei giornali femminili per la sua eleganza e presiedeva a conferenze benefiche. Frequentando le duchesse, riusciva a tener buono l'ambiente aristocratico e a far credere che D'Ambrèse, pentito, potesse un giorno o l'altro tornare utile anche a loro. Spinto un battente del portone, Federico attraversò il cortile. Salì la scala d'ingresso e si trovò in un vestibolo col pavimento di marmo colorato. Squillò un campanello e comparve un valletto a introdurlo in una piccola stanza dove spiccavano due casseforti e alcuni casellari colmi di pratiche. In mezzo a una scrivania a cilindro stava scrivendo il signor D'Ambrèse. Il banchiere scorse la lettera del vecchio Rock, tagliò con un temperino la tela che avvolgeva i documenti e li esaminò. Da lontano, data la sua figura smilza, poteva sembrare ancor giovane, ma i capelli bianchi e radi, le membra deboli, soprattutto il grande pallore del viso, facevano pensare a un organismo duramente provato. Gli occhi chiari, freddi come occhi di vetro, sprigionavano un'energia implacabile. Aveva zigomi assai pronunciati e le articolazioni delle mani erano nodose. S'alzò finalmente e rivolse al giovane qualche domanda su persone di comune conoscenza, su Nogent, sui suoi studi. Poi lo congedò con un breve inchino. Federico, uscito da un altro corridoio, si trovò nella parte bassa del cortile, vicino alle rimesse. Una carrozza blu, con attaccato un cavallo nero, era ferma davanti all'ingresso. La portiera fu schiusa, una signora salì. Federico giunse nello stesso istante al portone. La giovane signora, sporgendosi dal finestrino, parlava a voce bassa col portinaio. Federico non scorgeva che le sue spalle, coperte da un mantello viola. Riusciva però a penetrare con lo sguardo nell'interno della carrozza, tappezzato di panno blu con passamanerie e frange di seta. La veste della donna ne colmava lo spazio. Veniva da quella piccola scatola imbottita un profumo di iris e come un sottile sentore di femminilità e di eleganza. Il cocchiere mollò le redini, il cavallo sfiorò bruscamente il pilastro e tutto scomparve. Federico rincasò a piedi lungo i boulevard. Gli dispiaceva di non essere riuscito a vedere meglio la signora D'Ambrèse. Poco dopo Rue Montmartre, un ingorgo di carrozze gli fece voltare la testa e dall'altra parte della strada, proprio di fronte, lesse su una targa di marmo Jacques Arnoux. Come aveva fatto a non pensare a lei prima d'ora? Era colpa di Delorier. Andò verso la bottega. Non pensava ad entrarci, tuttavia, attese la sua apparizione. Gli alti cristalli della vetrina offrivano allo sguardo, disposti con abilità, statuette, disegni, stampe, cataloghi, copie dell'art industriel. Le condizioni d'abbonamento erano ripetute sulla porta, decorata nel bel mezzo dalle iniziali dell'editore. Federico faceva finta di guardare i disegni. Dopo infinite esitazioni, si decise a entrare. Un commesso apparve da dietro la tenda e rispose che il signor Arnoux non sarebbe stato in magazzino prima delle 5. Se poteva riferirgli qualcosa, no, no, ripasserò, riuscì appena a ribattere Federico. Impiegò i giorni successivi a cercarsi una stanza e finì col sceglierne una al secondo piano, ammobiliata, in Rue Saint-Hyacinthe. Con un quaderno nuovo sotto il braccio, andò all'inaugurazione dei corsi. 300 giovanotti, tutti senza cappello, gremivano un anfiteatro dove un vegliardo in toga rossa dissertava con voce monotona. Qualche penna grattava sulla carta. Federico ritrovava là dentro l'odore polveroso delle aule di collegio. Una cattedra con una forma quasi identica, la stessa noia. Frequentò le lezioni per 15 giorni. Ma prima che arrivassero all'articolo 3, aveva belle piantato il codice civile. Le istituzioni di diritto romano le abbandonò alla summa divisio personarum. Le gioie che si era ripromesse non arrivavano. E una volta dato fondo ai libri della biblioteca cui si era abbonato, percorsi i corridoi e le sale del Louvre, tornato una sera dopo l'altra a teatro, il giovane piombò in una svogliatezza senza fondo. Anna Bonaiuto ha letto L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.